La settimana è stata nera, polline, viaggi, polline, solitudine vissuta male e ancora polline, vie aeree allo sfascio, congiuntive infiammate, stenosi tubarica, stato di prostrazione. Ci mancava che in cerca di speranza accendessi la televisione per le previsioni del tempo. Già l'argomento delle previsioni del tempo mi innervosisce. In un paese civile ce ne sarebbe già a sufficienza per licenziare in blocco tutti i dirigenti della RAI. Come è possibile, mi domando, che le previsioni del tempo siano tre come i canali televisivi? Nella mia ingenuità non riesco a capacitarmi che la meteorologia possa seguire la stessa logica della spartizione politica, che il bello stabile possa fare il gioco della democrazia cristiana o che le basse pressioni sul Mediterraneo possano essere guardate di buon occhio alla luce della strategia di Occhetto. Sia come sia, vabbè, teniamocele queste tre previsioni del tempo, sia come sia ho acceso la TV in cerca di favorevoli previsioni del tempo, favorevoli a me. Per la precisione, quelle di Rai 3, non l'avessi mai fatto. Non solo prevedevano il più malaugurato bello stabile, sole a picco in Valpadana, ma all'insegna della deregulation più sfrenata mi è saltato anche il pezzo che faticosamente stavo scrivendo e preparando per la caccia di questa sera. Avevo preso a parlarvi di un particolare emerso dalla discussione dell'ultima piattaforma sindacale presentata dagli esorcisti cattolici italiani alla Commissione Episcopale. Tra l'altro, in questa piattaforma si sosteneva i propri ineludibili argomenti, tutti tendenti ad evidenziare la presenza del maligno fra noi, dando anche una mano alla SIP. Infatti, sostenevano gli esorcisti, il diavolo, per risparmiare forze e tempo, colpisce le proprie vittime tramite il telefono. Quando squilla, noi si corre ad alzare la cornetta e di là sembra non esserci anima viva, in realtà c'è l'animaccia sua che lancia maledizioni auricolari. Figurarsi come la cosa possa far gongolare la SIP, fino ad oggi incriminata per disservizi cui invece era beatamente, sottolineo beatamente, estranea. Orbene, stavo più o meno elaborando sul tema quando, grazie alle previsioni del tempo di Rai 3, mi è toccato buttar via tutto. Il meteorologo, infatti, non si accontenta, quello di Rai 3, delle quattro balle con le quali si guadagnerebbe il pane, ma svolazza qua e là fra i rami del sapere e le foglioline tenere della morale. Ed eccolo dir lui, lui in proposito di esorcisti, telefoni e SIP, più o meno quanto mi ero prefisso di dire io. Conclusione che ho buttato tutto. Mai avrei accettato di seguire il solco tracciato dall'aratro altrui. Che volete, son fatto così. E la maggior parte degli intellettuali è fatta drammaticamente così. Non ce ne viene nulla di buono, ma al diritto di primogenitura sulle idee ci teniamo di brutto. Non mi importa mai, in alcun modo, saperlo dopo. Quasi obbligatoriamente si finisce con il dire cose diverse, perché obbligatoriamente diversi sono i punti di vista. Ma saperlo prima, che qualcuno ha già fatto un commento simile al tuo, costituisce una barriera mentale insormontabile. Come se una strada ci fosse sbarrata con la frustrazione di aver compiuto una fatica del diavolo, per l'appunto inutile, per arrivarci. Sono tanti i motivi che fanno ritrovare l'intellettuale con il sedere per terra. Ma uno di questi, fra i più drastici e i più patetici, è la sua pretesa di originalità. Mm. It's the second time. I know I've seen you here before. It's no coincidence, I'm sure, that once again my spirit soars. And the second time is always harder than the first. Forgetting lines that I've rehearsed, I feel